La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Un saluto e ben ritrovati all'ora di cinema settimanale di Radio 24, La Rosa Purpurea, una puntata che si destreggia, fa lo slalom in mezzo alle uscite di questo weekend, non tante come la scorsa settimana, meno di quelle della prossima, però abbastanza qualificate. Fabio Volo, Margherita Bui, Luciana Littizzetto, Locandina Affollata per Matrimoni e altri disastri, ancora una commedia per raccontare gli italiani di fronte agli anelli nuziali. Ospite alla Rosa Purpurea la regista Di Maio. E poi da Romero ai giorni nostri. Arriva nelle sale il remake della Città verrà distrutta all'alba, variazione biologica sul tema degli zombie. Ne parliamo con l'esperto Manlio Gomarasca, direttore della rivista Nocturno. Alejandro Amenábar, il regista spagnolo di film raffinati come Mare dentro e potenti come The Others, riflette sul rapporto fra scienza e religione in Agorà, per farci scoprire il personaggio di Ipazia d'Alessandria, un Galileo in gonnella del IV secolo d.C. 30 anni fa moriva Alfred Hitchcock, il maestro del brivido e non solo, alla riscoperta degli aspetti meno conosciuti del grande regista con lo storico del cinema Italo Moscati. All around me are familiar faces, worn out places. Worn out faces. Cominciamo subito parlando del film della settimana, almeno per l'interesse che potrebbe suscitare in un pubblico di teenager, ma forse anche qualcosa di più, e anche per le potenzialità di classifica di questo film. La città verrà distrutta all'alba, abbiamo detto, remake di un film tra i non più conosciuti, diciamo, di Giorgio Romero. Nella desolata provincia del Midwest si sparge un contagio mortale, il virus di ignota provenienza si trasmette attraverso l'acqua e fa di ogni assetato un efferato omicida in cerca di sangue. Una quieta coppia di coniugi, miracolosamente sfuggita alla prima ondata della malattia, ingaggia una disperata battaglia per la salvezza. Ascoltiamo la clip. Guarda là. Che diavolo vuoi fare? Rory, metti giù il fucile. Hai fatto quello che dovevi. Potresti dare un'occhiata a Bill? Certo, che cos'ha? Non lo so, non è normale. È tutto a posto, mi sento bene. Che programmi hai per il weekend? È tutto a posto, mi sento bene. Ben! Ben! Che cosa fa, papà? Gira con un coltello. Da quanto gioca la bella statuina? Un paio d'ore più o meno. Esattamente come Rory. Si mette male. Abbiamo sentito un mix dei momenti e delle emozioni di questo film. Dicevamo un remake diretto da Breck Eisner, che tra l'altro sta già guadagnando punti in quella di Hollywood per prossime produzioni, fra poco ne parliamo. Prima però vogliamo sentire un po' il parere su questo film, che ha un inizio, a mio modo di vedere, fulminante. I primi 5 minuti sono davvero di una sciuttezza degna del predecessore, insomma del capostipite di questa pellicola, e poi va avanti molto bene fino almeno alla mezz'ora. Dopodiché si scade un po' nel trash, però insomma facciamoci raccontare appunto il punto di vista di uno che di horror se ne intende, come Manlio Gomarasca, direttore della rivista Nocturno, che è in collegamento con noi. Ciao Manlio. Ciao Franco, buonasera a tutti. Allora, hai visto il film? Qual è il tuo giudizio? Ho visto il film e sono, devo dire in verità, abbastanza deluso dal film. E ti spiego perché. Io non sono contro il discorso dei remake, perché anzi i remake, soprattutto dei film dell'orrore, sono ormai un genere che nel nuovo millennio va studiato come a parte, ma proprio sono deluso perché, come in un altro caso, come nel remake di Io sono leggenda, si è snaturato completamente il concetto dell'altro film. Cioè, voglio dire, il film di Romero, la bellezza del film di Romero, come hai detto giustamente tu, è un film poco conosciuto, stava proprio nell'essere un film che voleva essere politico, che voleva dire qualcosa. Questo assolutamente no. La dimostrazione è proprio il fatto che nel film di Romero non c'era un vero protagonista, ma era proprio il racconto di questa cittadina e dei suoi abitanti, o di un gruppo di questi abitanti che si trovavano di fronte alla minaccia da una parte del virus e da una parte delle forze armate. Qui invece in realtà tutto si riduce ai due protagonisti, due classici belloni americani che devono sopravvivere loro e solo loro, e chi se ne frega di tutto il resto fondamentalmente. Poi per il resto ti dico, il film funziona a un livello splatter, gore, chiamalo come vuoi, diventa un simpatico giocattolo, ma secondo me non basta. A questo punto preferivo che si reinventasse completamente l'originale, come ha fatto ad esempio Zack Snyder nell'Alba dei Morti Viventi, per rimanere in tema di Romero ad esempio. Ecco Manlio, un elemento che secondo me toglie forse un po' di pathos a un certo punto è questa questione dell'osservazione esterna, cioè i protagonisti, e lo spettatore lo sa, sono osservati dall'esterno, quindi noi capiamo che c'è qualcuno che sta, come dire, portando avanti questa minaccia biologica. Ecco, forse stare più sui personaggi, evitare di consegnare allo spettatore questa lente di ingrandimento che ti fa sentire più al sicuro, perché tu dici, ah beh, vabbè, allora se c'è qualcuno che sta tramando, lo sappiamo sin dall'inizio. Ecco, questo elemento, a mio modo di vedere, sposta un po' il pathos e forse raffredda un pochino anche il film. Ma probabilmente sì, ma probabilmente questo era il tentativo di aggiornare un po' con le nuove tecnologie, i satelliti e quant'altro, quello che in Romero c'era già, cioè c'era comunque nel film di Romero un controllo da parte della milizia che tentava di sistemare la situazione nel modo più sbrigativo, quindi con la violenza e quant'altro. In quel caso però erano rappresentati, cioè il bello è che lì venivano raccontati anche questi soldati che eseguivano degli ordini che dovevano eseguire senza sapere neanche loro cosa andavano a fare e che tentavano di contenere qualcosa che non poteva essere contenuto, no? Comunque dei disperati anche loro. Qui in effetti c'è questa visione un po' tecnologica, un po' futuristica, un po' alla Grande Fratello, insomma, che ci spia continuamente, che effettivamente serve secondo me unicamente per aggiornare il tema, ma non toglie, anzi forse toglie qualcosa di più alla trama, alla paura, ecco, quello che forse un film dell'orrore dovrebbe fare. Sì, su questa cosa è, ma non è solo questo il problema del film. Il problema del film è appunto che non aggiunge niente, che banalizza, che estremizza tutta la situazione, poi crea quei due o tre momenti e scende dei compromessi che secondo me un film di quel tipo non doveva scendere, cioè comunque di legarsi in qualche modo anche al filone degli zombie che va tanto di moda. Non si capisce perché questa poveri cristi che impazziscono bevendo l'acqua alla fine devono trasformarsi in una specie di certo, zombie. Certo. Ci sono questi compromessi che dice, vabbè, diamo un colpo a questo, un colpo a quello, soddisfiamo i ragazzini che giocano con la PlayStation e siamo tutti contenti e portiamo il film a casa. Evidentemente però questi elementi appunto che tu hai detto, vengono fuori alcuni elementi importanti, ci hanno dato comunque la misura della mano di questo Breck Eisner, che è stato assunto dalla New Line per dirigere il remake di 1997 Fuga da New York, e quindi lo ritroveremo alla guida di un remake di razza, diciamo così, come questo. Pronto? Veglia, è una giornata bellissima, 22 gradi, umidità 77%, una leggera brezza da nord-nord-ovest. Ma chi è? Alessandro? Indovinato, cognatina, qui è il tuo cognatino. L'uomo che tra meno di 2 settimane getterà nella disperazione tutte le donne del mondo, tranne una, la prescelta. Ma sei ubriaco? Alle 7 del mattino? Francamente non ci ho mai provato, però gran suggerimento. Le 7? Ma è prestissimo. Per i comunisti fancazzisti come te, certo, ma il quattrino non dorme mai. Ma perché ansimi così come un maniaco? Jogging! Mi sto mettendo in forma per il grande giorno. Fossi in te ci penserei, perché, come dire, a occhio non sembri molto tonica. Vaffanculo. E con questo, diciamo, auspicio di Margherita Bui, noi apriamo la seconda parte della Rosa Purpurea. Avete sentito Fabio Volo, Margherita Bui in una scena di Matrimoni e altri disastri, la commedia di Nina Di Maio, di cui vogliamo parlarvi ora. Una vicenda ambientata in un'assolata Firenze, dove la Bui e Luciana Littizzetto gestiscono una libreria. Lo stesso grande affetto, grande amore per questo lavoro viene trasposto dalla prima, da Nanà, appunto Margherita Bui, sul suo gatto, che è un po' l'unico mezzo con il quale questa donna attraversa una vita affettiva ridotta praticamente a zero dopo una sfortunata storia d'amore. Tutto cambia però quando la sorella minore, Francesca Einaudi, porta in casa il suo futuro sposo, che avete sentito, questo spigliato e nordico Fabio Volo, e chiede aiuto per organizzare il matrimonio. Di fronte a questa simpatia e al contagio capace di creare da questa nuova figura maschile, cadono davvero molte maschere. Scusa questa intrusione, che sono andato a bere con gli amici lì, addio al celibato, insomma. Sì, immagino. È che te sei una donna fantastica. No, grazie, no, ma davvero. No, ma davvero, cioè, sì, perché te sei intelligente, sei colta, sei sensibile, sei. E poi sei più bella, oh. Poi questi occhi, questi che te se guardi uno in uno deve mettersi sui Ray-Ban. No, sì. Bene, grazie, veramente, grazie. E noi siamo al telefono con Nina Di Maio. Non si poteva vedere il bacio, Nina, in questo momento. Ciao, grazie di essere qui con noi alla Ciao. Rosa Purpurea. Ciao. Ciao. Allora, Nina, una commedia, ancora una commedia in questa stagione nella quale il cinema italiano sembra avere recuperato il sorriso come mezzo per parlare al proprio pubblico. Beh sì, per me diciamo è anche un po' una cosa nuova la commedia to cool, perché io ero partita dai primi due film che avevano dei toni di commedia, il primo ma anche dei toni un po' drammatici, il secondo era una specie, per me una tragicommedia, è un tipo di ironia che hanno capito solo i tedeschi, che sono notoriamente dei sadici, un po' surgelati, ma in realtà diciamo questa è la prima volta che io per me come genere uso la commedia per raccontare una storia anche seria, però tutto sommato con dei toni assolutamente brillanti, e credo che forse sia anche una specie di metodo catartico per non essere troppo depressi, no scherzo, però magari nelle fasi in cui non va tutto perfettamente come dovrebbe andare, alle volte forse è meglio usare la commedia per raccontare le cose, perché sennò poi diventa veramente troppo dura, probabilmente, oppure forse è anche solamente una normale ispirazione, un buon umore passeggero, però non mi sembra stupido pensare questo in maniera collettiva. Senti, è interessante secondo me il fatto che per una volta è la comparsa o l'apparizione nello scenario del film di un personaggio maschile a rompere gli equilibri fra i personaggi del film, appunto, a far venire fuori queste loro repressioni, queste loro insicurezze. Di solito il cinema usa la femme fatale, tu hai inventato il Fabio Volo Fatale. Il Fabio Volo Fatale è buffo, ma no, in realtà è perché è un elemento un po' come fosse diciamo anarchico, che in una specie di equilibrio, di equilibrio squilibrato di queste donne che tutto sommato hanno una vita sentimentale assolutamente fallimentare, perché chi ha avuto delle delusioni terribili per cui non riesce più ad andare avanti, chi sogna di avere il grande amore, diciamo starebbe con chiunque, anche con l'uomo con la litosi pur di non rimanere da solo, cioè per esempio la Letizietto, e diciamo al di là di tutte queste squilibri, di finti equilibri creatisi da queste donne assolutamente un po' che hanno perso un po' come la bussola della loro vita sentimentale, questa specie di ragazzo un po' così anarchico e questo gaglioffo un po' gagliardo e a tratti spaventoso, a tratti molto umano, e in qualche modo con la sua maniera così istintiva e così anche un po' diciamo tra virgolette anarchica nel modo di fare, di porsi con queste persone che sono inserite in dei contesti borghesi molto rigidi, probabilmente riesce a portare un po' lo scompiglio come se fosse. Senti, ascoltiamo allora adesso un altro momento, un'altra trentina di secondi di un momento molto divertente nel quale appunto viene fuori, poi tu dicevi questo scenario borghese molto rigido, però viene fuori che appunto queste rigidità a volte sono di forma, sono di facciata. Il momento in cui Margherita Buy va nel negozio a scegliere le bomboniere per il matrimonio, sentiamo. Ah, signora, mi fa vedere quelle bomboniere del commercio ecosolidale? Sì, certo, abbiamo artigianato asiatico e africano, ma sono delle cose molto cheap. Oh, cheap. Perfetto, me ne fa vedere? Sì, subito. Non abbiamo una grande scelta, sa, in genere queste cose non vengono a cercarle da noi, queste piacciono molto alla gente di colore, africani, filippini, questa gente qui. Questa gente qui di solito ha buon gusto. Queste sono molto carine. Le fanno i bambini delle missioni in Africa. Mi piacciono. Allora, avete sentito appunto, no? Viene fuori anche questo côté radical chic. C'è, Nina, anche nei due protagonisti la dicotomia fra chi cerca le soddisfazioni della vita dalla cultura elevata ideale, no? Come Nana, forse... Ma no, perché non è una cultura elevata ideale, scusate se ti interrompo. È più che altro un rifugio per una misantropa che ha avuto una serie di delusioni, in qualche modo si rifugia nei libri, in questa libreria. È quasi un nascondiglio, si potrebbe dire, per una persona che non ha il coraggio di buttarsi nella vita. Ma forse sono anche due Italie, no? Quella di Nanà e quella di Fabio Volo, che invece la butta molto sul pratico. Sì, appunto. Era un po' l'idea di raccontare, diciamo, questa borghesia un po' chiusa autoreferenziale che io amo e adoro, di cui parlo da sempre, piena di difetti, però anche molto appunto che sia un po' scollegata dalla dalla terra e dal terreno, però non proprio, perché poi in realtà sono dei produttori di vino, oltre a essere degli intellettuali, poi in realtà questi signori della famiglia di Nanà, per intenderci, quindi c'è, cioè, anche all'interno della famiglia ci sono persone più pratiche, altre meno pratiche, però sicuramente è una borghesia un po' più illuminata e così colta intellettuale versus, diciamo, il nuovo ricco, il nuovo borghese della provincia che arriva e che magari è anche visto male da questa borghesia, invece poi riesce a inserirsi nel mio film. Certo, questo è un dato anche abbastanza fotografante dell'attualità italiana, se vogliamo. Ti faccio un'altra domanda, Nina. Due film, dicevi tu, in due anni, all'inizio degli anni 2000, poi 8 anni di buio, almeno cinematografico. Cosa hai fatto nel frattempo ed è così difficile trovare una continuità realizzativa nel cinema italiano? Sì, no, praticamente impossibile per quanto mi concerne trovare la continuità realizzativa, ma non per le mie idee. Vabbè, per fare questo film ci abbiamo messo alla fine 2 anni e mezzo o cose del genere. Dopodiché io ho fatto dei documentari di arte, uno su una installazione di Greenway, uno su Anish Kapoor a Londra, uno su un artista di Ponticelli, insomma, con cui poi ho scritto una sceneggiatura di un film che non si è mai fatto, però di cui ho fatto poi curato lo sviluppo, insomma, ci abbiamo lavorato seriamente. Solo che molto spesso uno magari scrive 2 o 3 film e se ne realizza uno. Essendo poi io donna e meridionale, diciamo, c'avevo quasi tutte le cose contrarie, diciamo, per riuscire a sopravvivere in dei periodi in cui magari il cinema non era proprio così vivace dal punto di vista della produzione, insomma, non c'erano così tanti poi soldi da distribuire per tutti i registi potenziali. Per cui per me è stata durissima, però diciamo in questo tempo, anche se non mi si è vista, insomma, lavoravo. Perfetto, allora grazie a Nina Di Maio, ricordiamo il suo film Matrimoni e altri disastri nel cinema italiano, grazie di essere stata con noi. Grazie a voi, ciao. E allora noi a questo punto apriamo la prima finestra della settimana, della puntata sul DVD game. Piccolo preambolo, Blu-ray game anche questa volta, e siamo davvero a un altro game di super lusso, quindi sintonizzatevi, ascoltate bene, cercate di riconoscere qual è il film misterioso di questa settimana, perché ben 6 dei nostri ascoltatori riceveranno a casa un Blu-ray di questo straordinario lavoro, ma non voglio dire nient'altro, almeno per il momento, ascoltiamo. So che non lo sembro, ma comincio a sentirlo nel cuore. Mi sento sottile, quasi stiracchiato come il burro spalmato su troppo pane. La Rosa Purpurea @radio24.it, inserite il vostro indirizzo privato, perché chi sarà il più bravo e il più fortunato del sabato e della domenica, e chissà, anche di qualche replica notturna, riceverà a casa il Blu-ray di questo film, più tardi, qualche altra possibilità. E se esistesse una spiegazione più semplice per le stelle erranti? Esiste! Ma è così assurda, è così vecchia, che nessuno le dà alcun credito. Di che teoria si tratta? Tu parli di Aristarco? Aristarco sosteneva che la Terra si muove. Lo strano comportamento delle stelle erranti non è niente altro che un'illusione ottica causata dal nostro movimento all'unisono con il loro intorno al Sole. Un modello eliocentrico. Sì, esatto. Il Sole sarebbe al centro, come si confà alla sua dignità di re delle stelle. Facendo della Terra un'altra... Il suo lavoro andò perduto. Stella errante. Nell'incendio che distrusse la biblioteca antica. Parliamo di Agorà, un altro film che arriva nei nostri cinema. Alessandria d'Egitto, anno 391 d.C., cristiani, pagani ed ebrei convivono, anche se l'equilibrio fra loro è sempre più precario. La città è una delle capitali culturali del mondo, con la sua florida ricerca scientifica, con la sua straordinaria biblioteca. Molti personaggi di comprovata intelligenza e cultura si muovono in quel territorio, tra loro Ipazia, filosofa e figlia a sua volta di un filosofo, icona di un protofemminismo sapiente che assiste impotente all'insorgere dell'estremismo religioso degli animisti e dei cristiani. Donna bellissima e affascinante, nel film Rachel Weisz, Oscar non protagonista per The Constant Gardener qualche anno fa, Ipazia è contesa tra l'amore del suo schiavo prediletto, Davus, e la saggezza di uno dei suoi consiglieri, l'arguto Oreste. Ma l'equilibrio che ha retto fin lì la città, come dicevamo, è in grave pericolo, e la furia distruttrice dei cristiani sta per abbattersi sulla filosofia e sulla religione. Oreste, ma con quale autorità tu giudichi il lavoro di Dio? Un uomo non può più aprire bocca in questa città? Se critichi la creazione, critichi nostro Signore e ci offendi. Va a vivere nel deserto, così non sentirai niente che ti offenda laggiù. Tu non sai di che cosa stai parlando, e neanche voi. Sinesio, qual è la prima nozione di Euclide? Perché lo chiedi? Tu rispondimi. Se due cose sono uguali a una terza cosa, allora sono uguali tra loro. Bene. Voi due non siete simili a me? Sì. E tu, Oreste? Sì. Ecco, quello che sto dicendo è per tutti coloro che sono in questa aula. Molte più cose ci uniscono di quante non ci dividano. Qualunque cosa succeda nelle strade, noi siamo fratelli. Noi siamo fratelli. Non vi dimenticate che le risse sono per gli schiavi e per la marmaglia. Amenabar fulminato sulla via del Colossal non sfugge ad alcune trappole tipiche della spettacolarizzazione, attingendo al peplum anni 50, attento alle scenografie magniloquenti e alle scene di massa. Si perde un po' forse l'aspetto più intimo e personale della storia di questa donna, che poi forse è anche la cosa più interessante. Questa donna che ha cercato di cambiare il mondo in cui viveva, riaffermando il ruolo universale del laicismo scientifico. Lezione questa che, chi l'avrebbe mai detto, è attuale ancora oggi, nel XXI secolo. Good afternoon. Here we have a quiet little motel tucked away off the main highway, and as you see, perfectly harmless looking, when in fact it has now become known as the scene of the crime. E quello che avete sentito è la voce di Alfred Hitchcock, straordinaria questa presentazione, che non è neanche un trailer, è proprio una sorta di presentazione, come si farebbe con un amico, del set di Psycho. Avete sentito, qui abbiamo un piccolo motel che è anche la scena di un crimine, e va avanti, come sentite in sottofondo, la presentazione di Hitchcock, di questo Psycho. Questo ci dà anche la misura di quanto fosse avanti anche in termini di comunicazione questo straordinario maestro, che moriva esattamente 30 anni fa, il 29 aprile del 1980 a Los Angeles, all'età di 81 anni. E allora, 30 anni dopo quella scomparsa che ha privato il mondo del cinema di uno dei più grandi interpreti di tutti i tempi, noi vogliamo raccontare in questo nostro programma l'Hitchcock che forse si è conosciuto di meno, quello che andava oltre questa nomea di maestro del brivido. Maestro del brivido è una dichiarazione di intenti, potremmo dire, ma forse è più interessante il titolo del libro che ha scritto Italo Moscati, che parla di Hitchcock, il laboratorio dei brividi, quindi brividi che vengono fuori non solo dalla paura. Italo Moscati, è così? Sì, esattamente così, Franco, e devo dire che hai centrato proprio il problema, cioè nel senso che ci sono i grandi che a volte vengono avvolti da un alone di leggenda che poi è difficile toglierglielo. Beh, alla fine finiamo per ragionare su questo tipo di brivido, che in realtà è una moltiplicazione di brividi sia nei suoi film che nella sua vita privata. Pensate che era un personaggio che tra l'altro ha frequentato i gesuiti, ma ha fatto l'amore per la prima volta a 24 anni e non sapeva il significato della parola mestruazioni. Sposò una ragazza che aveva conosciuto nella casa di produzione dove aveva esordito giovanissimo come disegnatore dei sottotitoli dei film muti, e poi era un personaggio che aveva varie abitudini curiose, per esempio quello di travestirsi da donna quando già era nel successo, oppure di allestire delle cene che servivano in tavola piatti come crocchette di cadavere, tenere cozza alla morgue, omicidio fatto in casa. Quindi un personaggio veramente poliedrico e curioso nella vita privata, che riversava tutto questo nel suo cinema. Il suo cinema è interessante non solo perché architetta delle trame incredibili, ma perché dietro c'era una cultura sua profonda, che era quella della vita e, come dire, la contrapposizione tra bene e male. Lui era, essendo cattolico, era proprio un seguace di un protestante, un grande scrittore, Chesterton, che poi è anche quello che ha inventato Padre Brown. E Padre Brown diceva: il bene va bene, però il male è più interessante. E siccome Hitchcock che crebbe nella figlia di un bottegaio dove vendevano pesci e altre mercanzie, era in qualche modo cresciuto nella Londra dei crimini di Jack lo Squartatore e di altri infiniti delitti orrendi, la sua cultura in qualche modo si è abbeverata diciamo così, un po' di tutti questi fatti, ed è proprio questo campo, quello dei brividi in senso lato, che credo che abbia costruito la sua fortuna servendola con una tecnica sorprendente che ha aggiornato non solo in patria facendo dei film come per esempio Il pensionante, che è appunto la storia di Jack lo squartatore, ma anche i film che ha fatto in Germania durante il periodo dell'espressionismo, nei tempi di Pabst, Lang, Murnau, diventando anch'egli una specie di espressionista, ma non per fare film come erano quelli tedeschi che venivano denominati horror marxisti, ma per raccontare il crimine, cioè il gioco tra male e bene, tra peccato e perdono. Questo allora, Italo, ecco, a proposito di tecnica, hai parlato di tecnica, parlando di Hitchcock, io voglio far ascoltare i nostri amici che sono davanti alla radio, nodo alla gola, un breve frammento di questo straordinario film che di tecnica ne ha davvero molta. Spegni. Però dobbiamo guardarci intorno. Lo so. Non ce la faccio. Restiamo così un momento. Philip, non c'è tempo da perdere. È stata una vera disgrazia. Ma chi immaginava questa tragedia dopo una discussione tanto banale? Ma ora pensiamo a salvarci. Bisogna organizzarci. Purtroppo è andata così. Ora, di questo triste incidente, bisogna che non sappia niente nessuno. Sei d'accordo, Philip? Sì. Bene, mettiamo tutto in ordine. Nodo alla gola, dicevamo, film straordinario, girato tutto in piano sequenza per quanto i rulli di pellicola lo permettessero all'epoca, zeppo di temi come questa omosessualità latente, all'epoca negletti al cinema. Ecco, Italo, un altro Hitchcock diverso. Sì, un Hitchcock diverso, è vero, tra l'altro aveva uno strano rapporto con l'omosessualità Hitchcock, non ne aveva un certo sospetto, però in qualche modo ne era profondamente incuriosito. Era anche un uomo che da gusti sessuali abbastanza complessi. Lui aveva inventato, ed ecco un altro dei suoi brividi, le bionde verginali. Noi sappiamo che nei suoi film protagoniste sono state donne sempre bionde, con gli occhi azzurri, un po' gelide, tipo Grace Kelly, Vera Miles, T.P. Hendren, personaggi che lui ha spietatamente corteggiato, specialmente nella parte appunto della preparazione delle riprese del film, cercando di isolarle, di frequentarle, di fare il vuoto intorno ad esse. Ad alcune di loro addirittura ha tentato di fare una cosa talmente pressante, allungando le mani, caso tipico con T.P. Hendren, che lo scacciò dal camerino. E Hitchcock, proprio nel nome dei suoi crimini mentali e non, le organizzò una vendetta curiosa, la inserì in una grande voliera per girare una scena del celebre film Gli uccelli, dicendogli che erano tutti uccelli meccanici. In realtà c'era anche qualche uccello vero che sfuggì al controllo e beccò T.P. Hendren sul sopracciglio. Quella ferita non si è mai cicatrizzata a sufficiente e fu la ragione della rottura netta tra Hitchcock e la sua amatissima o quasi ultima attrice bionda verticale. E allora, maestro di brivido ma maestro anche di humor, Alfred Hitchcock, ascoltiamo questa clip tratta da Intrigo Internazionale. 1.500, grazie. 1.700. Siamo a 1.700. 2.000. L'offerta è 2.000. Vi offro i 2.500? Nessuno 2.500? 2.500 2.500 Nessun altro? 1.500. L'offerta è 2.500, signore. Io ne offro 1.500. Siamo a 2.005. Chi dice 3.000? 2.501 2.502 1.100. Aggiudicato a 2.005. 2.005 per quella crosta? Chi ci dice che non sia falso? Ne ha tutta l'aria. Beh, una cosa è certa, lei non è falso, è un idiota autentico. E avete sentito? La cosa interessante, Italo, di questa clip, che ci dice come Hitchcock sapesse tenere la linea narrativa su un livello diverso da quella emotiva. Cioè, in questo dialogo le notizie per lo spettatore non arrivano da quello che succede, ma dagli sguardi, dai particolari apparentemente secondari. E allora chiedo anche all'Italo Moscati, sceneggiatore, oltre che allo storico del cinema, questa della scrittura è una delle grandi lezioni che Hitch ha lasciato al cinema contemporaneo e persino al cinema d'autore? Sì, Sì, devo dire che lui è stato bravissimo a sceneggiare i suoi film, anche perché la moglie, che era la montatrice, ha collaborato con lui ed era una persona che conosceva molto bene la macchina cinema. Poi ha lavorato con Ben Hatch, con Dalish Emmett, con Chandler, cioè grandissimi scrittori, e comunque ha lottato con tutte le sue forze contro produttori come David Selznick, per sceneggiatori come Rebecca, difendendo le unghie coi denti il proprio lavoro, ed erano lavori che si protraevano per giorni. Questo era dovuto al suo spirito, il suo spiritaccio. Pensate che tra i brividi ce ne fu anche uno importante, e cioè quello di immaginare la propria morte, di organizzare un funerale a Hollywood come fosse vero, con i cavalli, la carrozza, i preti, i ferichetti, e lui si adagiò prima che partisse la carrozza nella bara con le mani congiunte sul proprio petto. Un personaggio quindi ironico, sornione, dotato di grande tecnica, che aveva preso da sé, non c'erano scuole di cinema, e soprattutto di grande capacità di individuare che nella paura esiste l'interesse per il cinema e comunque i racconti cinematografici in genere. Chissà come sarebbe stato il suo film, quello che ha lasciato incompiuto la mattina del 29 aprile dell'80, quando Hitchcock ci ha lasciato. Si sarebbe intitolato La notte breve, eh? Chissà che film poteva essere, Italo. Non lo sappiamo, purtroppo ci teniamo questo ricordo dei grandi film, che comunque noi sappiamo che nella ultima parte della sua carriera il suo talento esisteva ancora, ma era un po' scemato, anche perché aveva fatto molta televisione, si divideva tra la televisione e il cinema, e la televisione gli diede delle cifre assolutamente pazzesche, prima mettendolo al lavoro, cioè facendolo ideare soggetti, facendo la regia, e poi mettendolo in scena, cioè lo si vedeva prima dei telefilm a presentare in modo ironico il racconto. Poi a un certo punto aveva tutta un'equipe di persone che a un certo punto lavoravano per lui, e lui si ritirò a poco, era malato, era stanco, andò a trovarlo Ingrid Bergman, di cui era assolutamente innamorato, con cui l'aveva lavorato, le prese la mano in mano, nelle sue mani, e disse: Ingrid, è l'ultima volta che mi vedi. E così fu. Insomma, è uno straordinario personaggio fino alla fine. Grazie Italo Moscati, autore del libro Hitchcock, il laboratorio dei brividi, per essere stato qui con noi alla Rosa Purpura. Grazie. E allora torneremo a parlare di Hitchcock fra poco nel collegamento con gli amici di Film TV, perché ovviamente gli omaggi non mancano neanche in televisione, nei palinsesti la prossima settimana. Prima però di dare la linea alla regia, andiamo a giocare ancora insieme. Seconda traccia del DVD Game di oggi. Lo stregone bianco è astuto. Vaga qua e là, dicono, come un vecchio con mantello e cappuccio. E ovunque le sue spie sfuggono alle nostre reti. Noi non siamo spie. Ed eccoci di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, la quarta parte, quella dedicata al grande cinema da vedere, rivedere, registrare, recuperare in casa propria, e come sempre a farci dare i consigli sul palinsesto del weekend successivo, della settimana successiva. Noi chiamiamo in causa la redazione di Film TV, settimanale di cinema e di televisione, anzi di cinema in televisione nello specifico. Abbiamo detto Hitchcock, gli omaggi a Hitchcock non si fermano certo questa settimana in occasione del trentennale della sua scomparsa. E noi abbiamo voluto scegliere proprio uno di questi omaggi, Sara Sagrati. Buongiorno Franco e bentrovati con la segnalazione di Film TV, che per questa settimana è assolutamente da brividi. Infatti parliamo di Sir Alfred Hitchcock, con il suo primo film parlato, Blackmail, 1929. Fu il primo film parlato della storia del cinema inglese, quindi gli americani già lo facevano, esportavano cinema sonoro nella grande isola della regina, al che bisognava insomma correre ai ripari e fare come loro. E infatti la frase di lancio fu: il vedere e sentire il cinema nella nostra lingua come deve essere parlata, che era assolutamente molto divertente. Ovviamente fu dato in mano il lavoro ad Alfred Hitchcock, che non molti sanno, ma lui veniva dal cinema muto. Cosa fece lui? Una cosa assolutamente geniale, ovvero creò non solo una trama di tensione, infatti appunto parliamo di ricatti, anche molto sexy, cioè comunque veramente un tentativo di fare un cinema assolutamente nuovo e realistico, ma crea tensione anche sull'entrata del parlato, per cui la prima parte è muta per l'attesa di sentire finalmente gli attori che parlano, e tutte le parti sonore sono assolutamente già usate con molta intelligenza, sia per quanto riguarda i rumori, i suoni, la musica, per creare tensione. Quindi Alfred era assolutamente avanti in tutto questo. Assolutamente da vedere su Studio Universal alle 23:25 lunedì 26 aprile, anche perché sarà in versione originale sottotitolato, quindi il modo perfetto per vedere e sentire capire la lingua inglese come deve essere parlata. E con questo è tutto, e a risentirci, mai fu più azzeccato questo termine, alla prossima settimana. Ciao Franco. Ciao Sara, grazie. Allora ricordiamo un'altra cosa in cui Hitchcock è stato il primo film parlato del cinema inglese, perché ovviamente il cantante di jazz rimane storico in questo senso, ma la proposta quindi è Blackmail, lunedì 26 aprile su Studio Universal alle 23:25, un film molto importante per la storia del cinema e per la storia del cinema di Hitchcock. Allora, prima di passare a giocare insieme con la terza traccia del DVD Game, un'occhiata alla classifica degli incassi al box office dello scorso weekend, che è dominata da Scontro tra Titani, che è partito molto forte con 3.173.000 euro di incasso nel primo fine settimana. Quindi partenza forte che lascia poco spazio alle altre pellicole, tanto che al secondo posto troviamo un film che è fuori già da qualche settimana, il thriller politico di Roman Polanski, L'uomo nell'ombra, con 749.000 euro nel weekend, poi Green Zone di Paul Greengrass, anche questo fuori da qualche settimana, e poi davvero dobbiamo sottolineare la grande performance di Basilicata Coast to Coast, che è al quarto posto, ha portato a casa altri 525.000 euro nel weekend, denotando anche un certo appeal come film da fine settimana, come film da multisala, tanto che in molti multiplex questo film è programmato. Speriamo anche di aver portato un po' di fortuna a Rocco Papaleo, che è stato il nostro ospite qui nella settimana, nel weekend in cui appunto il film è uscito. Basilicata Coast to Coast, quindi il migliore degli italiani in classifica. Andiamo a giocare con la terza traccia del film misterioso di questa settimana. E abbiamo dimenticato il sapore del pane, il rumore degli alberi, la delicatezza del vento. Abbiamo dimenticato il nostro nome. Il mio tesoro. Vabbè, questa clip è come dirvi di che film si tratta, ovviamente, infatti l'abbiamo messa per ultima, perché se non ci siete arrivati fin qui, dovete per forza farlo. Grande saga, abbiamo detto, una dei film e delle saghe che hanno rivoluzionato anche il modo di intendere il cinema in questi ultimi 15 anni, diciamo, hanno anche cambiato il modo di fruirlo, sono stati il grande veicolo di accompagnamento dell'esplosione dei multiplex. E insomma, è un film che ha un ruolo che va oltre il suo spessore artistico e creativo. La Rosa Purpurea, @radio24.it, per dirci di che film si tratta e per concorrere, diciamo così, a questi 6 Blu-ray di questo film, dei capitoli di questo film che sono stati messi a disposizione. Soluzione, vincitori e recensione la prossima settimana, as usual. Adesso noi andiamo invece al film della scorsa settimana, al game di 7 giorni fa. Ascoltiamo una delle tracce che avevamo presentato. Si fa stasera. Anna Sage uscirà con lui e indosserà una camicetta bianca su una gonna arancione. Così sapremo che è lui. Potrebbe aver cambiato aspetto? Non sappiamo ancora se andranno al Marlboro o al Biograph. Due cinema? Esatto. Era Nemico Pubblico, uno dei film più attesi dell'inizio di questa stagione ancora in corso al cinema, firmato dal grande Michael Mann, interpretato da Johnny Depp, un film sulla figura di John Dillinger, film particolarmente interessante, azzeccato, intenso e di regia sopraffina. Questo era il film dello scorso weekend, l'hanno indovinato Kevin Kwaku, spero di averlo ben citato, via Cavalieri 19 e siamo nella provincia di Chieti, e Andrea Bensi invece di Firenze, sono i nostri due ascoltatori che sono riusciti a indovinare questo film per primi, ovviamente, nel corso del weekend scorso, e quindi riceveranno il DVD di questo film. Adesso noi, per farci raccontare invece cosa c'è dentro questo DVD, quali sono i contenuti, quali sono le qualità, abbiamo in collegamento, come sempre, come ogni settimana, il nostro Claudio Poffi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto a chi ci sta ascoltando. Sì, l'edizione Universal Pictures Home Video è prestigiosa, ricordo una versione DVD singolo, DVD doppio, nella versione due dischi ci sono numerosissimi approfondimenti sulla lavorazione, i luoghi dove sono accaduti realmente i fatti, le varie tecnologie, addirittura le armi dell'epoca in uso a polizie e criminali. C'è anche un eccezionale Blu-ray che permette veramente di avvicinarsi a quella che è la è stata la realizzazione da parte di Mann dell'opera, che ricordo girata quasi esclusivamente in alta definizione, solo alcuni segmenti del film sono stati realizzati in pellicola. Il Blu-ray offre in più una visione immagine nell'immagine con appunto ulteriori approfondimenti sulla realizzazione. È presente tra l'altro comunque un ottimo commento al film del regista. Per quanto riguarda l'audio, ci sono due tracce molto interessanti, sia la DTS in italiano che addirittura ad alta risoluzione per l'inglese. E allora andiamo avanti, andiamo alle due proposte che invece vogliamo presentare questa settimana. Cofanetto, Bergman, in arrivo da Teodora, anzi già nelle videoteche, con due film realizzati alla fine degli anni 60 che si intitolano Passione e la vergogna, imperniati sui guasti che una situazione di guerra produce sulle vite degli uomini. Ascoltiamo. Secondo me Eva è una donna che finalmente incomincia a negare, a respingere il fatto spiacevole di essere esclusa dal mondo circostante. Di non essere nessuno, o più semplicemente un prodotto plasmato da altri. Di non trovare riposo e non sapere quali siano le sue capacità. Ritengo che finirà per tentare il suicidio. Ma il suicidio non è mai una soluzione, anzi, è in fondo soltanto un altro atto egoistico. E io voglio sperare che riescano a salvarla. Due opere, entrambe girate presso una tetra isolata isola del Baltico. Nella Vergogna, Bergman, attraverso il tema della guerra, pone di nuovo l'accento sui problemi della coppia, il ruolo dominante del sesso femminile, l'impotenza di fronte alle disgrazie, mentre nella Passione, 29esimo film di Bergman e secondo film a colori, descrive l'inferno sulla terra attraverso i drammi dei personaggi del racconto. Entrambe le opere sono offerte con audio Dolby Digital in italiano e svedese con sottotitoli. Ci sono, insomma, direi alcuni appunti per quanto riguarda le immagini, però insomma ricordiamo sono opere a cavallo tra la fine degli anni 60 e i primi 70. Tra gli extra segnalo il film documentario Images from the Playground di 30 minuti, primo di due scritti diretti dal collaboratore Stig Bjorkman, che offre immagini dietro le quinte accompagnate da interventi audio di Bergman. E tra l'altro questo documentario è stato restaurato con il contributo della World Cinema Foundation di Martin Scorsese, che introduce l'opera. E allora andiamo all'altra proposta, oggi davvero settimana grandi autori, potremmo dire qui alla Rosa Purpurea, tra Hitchcock, Bergman, adesso Jean Renoir, La grande illusione, capolavoro del pacifismo e dell'antimilitarismo realizzato da Renoir nel 1937 in pieno furore dei regimi nazisti e fascisti in Europa, ascoltiamo. Perché voi vi chiamate De Boaldier, ufficiale di carriera dell'esercito francese, e io Raufenstein, ufficiale di carriera dell'esercito imperiale germanico. Ma i miei camerati sono anch'essi ufficiali. Un Maréchal e un Rosenthal, ufficiali, sono i regali della rivoluzione francese. Credo che né io né voi si possa arrestare la marcia del tempo. Davvero? Io ignoro come andrà a finire questa guerra, ma so che comunque porterà alla fine dei Raufenstein e dei Boaldier. Da Hermitage, questo arriva per la prima volta, l'ammirabile opera di Jean Renoir, che ci racconta durante la prima guerra mondiale di questo aereo francese da ricognizione con a bordo un aristocratico capitano e un proletario tenente. Questo aereo viene abbattuto dal nobile von Raufenstein tedesco, i due cadono prigionieri in segregazione, conosceranno un ebreo col quale tenteranno ripetutamente di scappare, finendo per questo trasferiti presso una fortezza gestita proprio da Raufenstein. Questo non impedirà ai soldati di progettare nuovamente la fuga. Dramma intimista del 1937 di Renoir, accurato messaggio pacifista, allo stesso tempo un ampio affresco dei cambiamenti sociali in atto nella seconda metà degli anni 30. Il film fu vietato all'epoca sia in Italia che in Germania, è considerato uno dei 10 film più importanti di sempre. L'edizione Hermitage offre la versione integrale di 109 minuti in francese, ma c'è anche la censurata in italiano con 7 minuti di tagli. La qualità video è molto buona per una visione appagante e dignitosa delle due tracce audio. Come extra ci sono approfondimenti testuali. Insomma, per un film che ha i suoi quasi 80 anni non è davvero poco. Grazie Claudio Pofi per averci raccontato come sempre le uscite del weekend in DVD e appuntamento la prossima settimana. A presto, un saluto. E allora chiudiamo qui la puntata della Rosa Purpurea, grazie per essere stati con noi. L'ora di cinema settimanale di Radio 24 torna il prossimo sabato alle 18 e la domenica in replica alle 15. Buon cinema a tutti, un saluto da Franco D'Assisi.